questo. YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Buonasera e bentornati a Radio Tube, un nuovo appuntamento anche nei giorni che ci si avvicinano al Natale, un nuovo appuntamento con la trasmissione di Radio 24 che vi fa ascoltare l'imperdibile, l'imperdibilissimo e anche parecchio del perdibile della settimana tra TV, web TV, social TV, tutto quello che ha fatto scatenare il mondo del web. E anche nella 12ª puntata non lo chiameremo popolo della rete. Incredibile 12, se volete segnalarci delle cose che dobbiamo perderci, che proprio non, che dobbiamo proprio non guardare, casomai fossimo lì a guardarle, ecco, invece no, così cambiamo canale. Voi potete scriverci a @MartaCagnola e @DiBellasio, giusti? Sì, anche se da queste voci non sembra che siamo noi. Come ti senti, Marta? Io sono senza voce. E io sono senza naso. Beh, non sembriamo noi, ma siamo noi. Dunque, e invece l'hashtag non è hashtag raffreddore, ma è hashtag Radio Tube. Col cancelletto lo facciamo con le dita. Possiamo partire, faccio il conduttore. Dai, sembro conduttore. Possiamo conduttore, partire perché poi io respiro poco, quindi 12ª puntata dedicata a grandi ospiti, grandi successi, grandi star, tutte intervistate, alcune le abbiamo tenute anche per le feste, dopo le feste, tutte intervistate da Marta Cagnola quando aveva la voce. Sì, infatti nelle interviste si sente che avevo ancora la voce. No, perché le interviste si possono, a volte sono fatte anche un attimo prima. Senti, però posso dirti subito che ho già un po' fame io. Sì, no, perché nelle feste si mangia tantissimo e vanno molto forte queste trasmissioni, record pazzeschi, cioè delle robe tipo 72. Dai, faccio io Marta Cagnola una volta. Dai, leggilo per bene, sentiamo, leggo. Come fai il signorino, buonasera. Ecco, allora, esordio con un record pazzesco per MasterChef, con più 72% rispetto al debutto dello scorso anno. E soprattutto notare che nei comunicati stampa Twitter quasi ormai prende il posto dell'audience. Se ne parla subito. Eh sì, oltre 25.000 tweet per il primo appuntamento di MasterChef. Di questi 25.000 la metà sono di Marta. Sì, io un po' tritato io. Abbiamo l'autrice qui in trasmissione. Ma mi diverte MasterChef, mi piace come scelgono i concorrenti. Pare che la più twittata ieri sera sia stata Rashida. Ma a me è piaciuta un'altra concorrente. Ho preso un estratto, io non so se tu l'hai vista, ma lei mi piaceva particolarmente. Sentiamola, io sono molto per Masterpiece, come sai. Ah, tu Masterpiece, io MasterChef. Che non era ieri. Tu leggi, io magno. Eccola qua. Anche Maria Rosa, una bella e elegante signora di 61 anni, da Bassano del Grappa. Allora, quanti minuti saranno passati? E cosa fai nella vita? Adesso faccio la casalinga. Ho fatto l'imprenditrice, avevo una grande villa che avevi? A un certo punto della vita l'ho aperta, ho aperto delle camere e ho avuto da me dei clienti molto famosi, da Ray Charles E insomma Ray Charles e poi Ray altri Charles di cui su Ray Charles poi si sono scatenati in battute tremende, anche politicamente un filo scorrette. Quindi ti sono piaciute perché tu apprezzi perché queste cose? Perché io sono cattiva. E le hai ritwittate? Le ho scritte. Allora, il giudice più citato su Twitter è stato Joe Bastianich. Io sono particolarmente appassionata di Joe Bastianich. Allora, io preferisco Barbieri perché secondo me è la Mara Maionchi del cooking show. Bella, mi piace questa definizione. Però alle donne piacciono di più gli altri due. Alle donne di solito piace Cracco, ma io sono per l'uomo mastrolingo. A qualcuno piace Cracco e anche il suo libro, mi pare. Sì, no? Sì. Però anche Bastianich. Però io sono per Bastianich. Tra l'altro Bastianich, lo sappiamo, è diventato un fenomeno da culto con alcune imitazioni, è il cattivo. Sì. Però qualcuno mi ha detto che questa stagione è meno cattivo. Sì, la prima puntata è stato un po' più morbido, vabbè, perché dovrà trovare qualcosa di nuovo. Allora aspetta, io te lo dicevo, l'ho incontrato, Joe Bastianich, come? Dove? Come non perdere come, l'occasione? Dove? Allora, Joe Bastianich ha la Cascina Cuccagna a Milano, di voce ne avevo un po' di più di oggi, ho avuto la fortuna così di perdermi nel suo occhio blu e soprattutto di chiedergli cosa farà di nuovo in questa stagione di Masterchef. Eccolo qua, Joe Bastianich. È un prodotto evoluto, i concorrenti sono sempre più capaci e il gioco si alza, anche noi dobbiamo alzare l'intensità del palio, nel senso deve essere sempre più difficile perché loro diventano sempre più bravi. E a te che impressione ha fatto il fatto di essere diventato tu stesso un fenomeno di costume, un fenomeno particolare, tutti parlano di te? Non so cosa dirti, ma perché, non so, io mi diverto, cerco di fare il meglio, ovviamente non essendo di prima lingua faccio i miei sbagli, continuo a cercare di esprimermi in qualche maniera e lì salta fuori di tutto, e se quello diventa una cosa divertente va bene, ma non è sempre divertente per me, perché alla fine... Sai, aver di fare con italiani che parlano italiano, non parlando italiano, non è sempre così facile. Come reagisci di fronte alle prese in giro amabili di alcuni imitatori? Sì, beh, quello è tutto fatto con un livello di simpatia, allora è interessante. Masterchef è un grande fenomeno in rete, sui social, su Twitter. Di questo cosa pensi? Ad esempio, questo è un fenomeno molto italiano. È bellissimo, no? Sono molto contento, è una cosa molto importante perché dà l'accesso, come live tweeting è bellissimo, mi piace farlo, è bello. Capito, lui fa live tweeting, non è che non sta, so, non sta, non so. Non sta a twittare come noi, live tweeting. Non so. E allora ti dirò quanto che se... Quanto mi piace questa giornalista, che interviste belle. Che soprattutto questi che uomini classe, belli. Che professionalità. ma sì, così bello. Sì, sì, affascinante. Ah. Allora, se Barbieri è la Mara Maionchi, sì. Secondo me... Lui è Rudy Zerbi. No, secondo me, ti dirò di più, è il Mike Buongiorno dei giudici, perché... Chissà se tutte queste gaffe sono vere o adesso comincia a studiarsene un po' come Mike, non lo so. Perché, te la butto perché lì. Lui è il gaffeur del gruppo. Lui è un oltre po' il gaffeur, il sì, perché con questa sua conoscenza dell'italiano a volte un gli po'... Scappa gli la scappa la frizione della sincerità che noi italiani un po' teniamo sotto freno. Sai che vorrei però fare un passo indietro e celebrare ancora il Crozza Bastianich. Dai, riascoltiamoci un pezzettino gli hai fatto di Crozza. La domanda, dai, riascoltiamocelo un pezzettino non so. Di Crozza. Non so, Bastianich. Ti sembra buono? Ci hai messo sale? Sì. Ti hanno levato le scimmie come Tarzan a te? Questo sembra un piatto che può servire in un ristorante stellato di New York, eh? Questo lo buttiamo, eh? Questo guarda che schifo. Questo lo butto al pubblico. Questo lo butto là, eh? Hai visto? Adesso è come Chernobyl, questo posto qua. Devo disinfettare, devo chiuderlo. Che schifo, eh? Mi stai deludendo, Maria Vittoria, mi stai deludendo! Ora io assaggio so che muoro, Mi stai deludendo, vuoi che muoro? Sono le muoro cose... è diventato poi è lingua di tutti è ormai. È diventato ormai, è così che si diventa fenomeni in rete. Noi ci ritroviamo tra poco per parlare di un fenomeno che sarà il grande fenomeno dell'inizio del 2014. Ecco, ma almeno Sanremo è rimasto su, cioè non è che come Miss Italia me lo mettono su Discovery Channel. Sanremo rimane, Sanremo rimane e tu prepara già le valigie. Guarda, io a Sanremo ci voglio andare, volevo Mango. Non l'hanno messo. Hashtag volevo Mango. Volevo è giusto. Buona idea. Radio Tube. Rieccoci insieme ancora Daniele Bellasio, ancora Marta Cagnola, ancora Chiocciola di Bellasio, ancora Chiocciola Marta Cagnola. Per chi volesse contattarci su Twitter e magari sentirci meglio di oggi che abbiamo la voce un po' così, ma noi rimaniamo resistiamo. In onda, resistiamo con queste voci particolarmente sexy per ma tutta l'ora di Radio dell'altro Cinco. Grandissimo successo culinario, non ne parliamo stavolta. Di Bake Off, dovremmo parlare anche di Bake Off o c'è qualche altro successo? Mitica parodi. Ne parleremo perché sai che è riuscita a battere Rai 2 e Rai 3 la parodi? No, perché qualcuno mi ha detto che anche hai incontrato da qualche parte, no?

Cosa? Non no, sul lavoro ci si può divertire. Io mi diverto anche, però evidentemente devo farlo di nascosto da briatore, perché lui dice che non ci si può divertire. No, nel senso che ha ragione, bisogna essere seri, ma cioè, divertirsi vuol dire anche insomma, metterci della passione. La passione si sente. Sono d'accordo. Senti, con briatore che dice che è partito da zero, è arrivato a 150.000, i VIP su Twitter, anzi VIP su Twitter, come dice lui. No, la cosa bella è che lui ha citato Twitter come fosse un'azienda. Io ho iniziato Twitter come fosse un business. No, sì, è proprio la mentalità. Certo, io ho iniziato Twitter un anno e mezzo fa, adesso ho 150.000. Forse un po' è così. E forse un po' è così. Posso continuare la mia campagna invece Rivogliamo Mentana su Twitter? Sì, perché su Facebook comunque fa dei fior di editoriali, eh? Sì, dopo sì, forse un po' sì. Ne parliamo. Però sì, a sto punto, visto che su Facebook è così attivo, sì, ci manca su Twitter. Bello quello che mi hai mandato via mail, facciamo la retroscena, che mi hai segnalato via mail proprio su Carlo Conti. Sì, no, infatti, grazie a lui, no? Perché poi dopo noi troviamo delle cose grazie anche a gente che posta il video su Carlo Conti. Che cos'è che ha detto esattamente? Allora, parlando di quell'audio che abbiamo sentito poco fa per quanto riguarda gli strafalcioni all'eredità, l'ormai celebre figuraccia di massa dei concorrenti e quiz di Conti su Rai 1 conferma molte cose di cui già si è parlato: crisi della scuola, della coscienza civile, della memoria storica, e via elencando. Ma ancor di più spiazza tutti noi che temiamo il dilagare di fenomeni, l'apologia delle dittature, l'antisemitismo, semplicemente impossibile da rimpiantare, per fortuna, vista la manifesta incapacità di chi li dovrebbe almeno orecchiare. Questi sono solo attenti ai premi, a mangiare, bere, abbronzarsi e ad avere l'ultimo modello di smartphone. L'Italia non li può temere, ma chi ha sale in zucca qualche domanda se la deve pur fare. Ed è per questo che Carlo Conti ha reagito molto bene al problema che aveva avuto lì in trasmissione, dicendo insomma un tanto un ripasso di storia, segnalando senza offendere che era abbastanza inaudito non saper rispondere. Sono d'accordo e lancio ancora la mia campagna Carlo Conti a Sanremo 2015. E Mentana su Twitter. E noi ci ritroviamo tra poco. YouTube. Ma come passa in fretta il tempo quando ci diverte, tutti i sabati a RadioTube e la domenica in replica alle 15, 15, 16, sabato 17, 18, 19. Insomma, anche se non abbiamo la voce, siamo arrivati quasi fino in fondo di questa puntata di RadioTube ricchissima. Di ospiti, con questo briatore che di c'ha regole. Le regole del Canzone. Boss. Regole. Abbiamo parlato un pochettino poco di politica, ecco, un pochettino poco. Ecco. Parliamo un po' di politica, sì. Parliamo di regole e di chi vuole scalfire le regole, il sistema, anzi di chi vuole abbattere le regole, il sistema. La scorsa settimana avevamo cominciato a parlare del movimento dei forconi. Sì, no, perché la rete c'entra molto. La rete c'entra molto, eravamo arrivati al chi di rete ferisce, di rete perisce, perché... spiegavano che si erano conosciuti tramite la rete, però la rete aveva beccato la macchina troppo di lusso che aveva accompagnato uno dei leader della protesta a un'iniziativa. E anche questa settimana c'è stata un'iniziativa, una protesta, sì. Però insomma... Non alla fine, diciamo, il correntismo, il dividersi in anime... Non ho mai capito se è un male o un bene della nostra politica, dividersi in correnti o in anime, perché da una parte è un male. So, guarda, io ho il pentapartito dentro. Ecco, abbiamo il pentapartito dell'anima noi dentro. Da una parte è un male perché complica le decisioni, dall'altra è un bene perché attenua, insomma, è rassicurante, no? Alla fine anche i movimenti più duri, più integralisti, alla fine li vedi che sono lì, che si dividono in correnti. E questi si sono divisi tanto in correnti. Hanno già cominciato, non hanno cominciato neanche a formarne una che già... Erano due. Erano due. E dove, ovviamente... Dove può essere successo? Si può parlare di Forconi, Bilderberg, i banchieri del che programma che di là preferito decidono... da Daniele Bellasio. No. Voglio dire, esiste, gli riconosco di esistere, perché esiste, fa parlare di sé, però vedi, cioè, cosa dobbiamo sentire? Che si sono un po' insultati. Un po' insultati mercoledì dandosi del leghista, 18 come se, cioè, alla... tu sei stato leghista più di me. Più di me. Mercoledì 18 alla gabbia. Sì, certo, la ecco gabbia. Cosa è successo tra Lucio Chiavegato e Danilo Calvani, due leader del movimento dei Forconi. Che cosa sta accadendo? È lei il problema? Sì, per il signor Chiavegato sì, perché io sono italiano e Roma è la mia capitale. Lui è un successionista, quindi è chiaro, Stato Veneto è l'amico suo che ha parlato. Io sono italiano, amo la mia Costituzione, amo la mia bandiera. Chieda a Chiavegato se gli piace il tricolore, la nostra Costituzione. Chiavegato, è gente come te che rovina la rivoluzione. È gente come te che si vende al potere, che fa un patto col governo, che sta rovinando i nostri, la nostra giusta battaglia del popolo italiano. Noi siamo convinti di stare nel giusto. Guardi, qui di ex leghista c'è solo Danilo Calvani che era iscritto alla Lega Nord di Latina, primo, quindi rientri nei ranghi. Io non sono mai stato iscritto alla Lega Nord, io sono fiero di essere veneto e dico che se questa Italia qua non riprende in mano la situazione è un bene che tutti i popoli rivendichino la propria storia, giusto per spiegare le cose. Se non ci fosse la gabbia. La Lega peraltro di Latina. La Lega di Latina, che già di per è bellissimo. Ho iscritto la Lega di Latina. Questa lite in fondo è anche un po' rassicurante. Ma non è tanto rassicurante quello che è successo qualche istante dopo. Il maestro, io aborro. Io aborro il maestro. Cos'è successo? Allora, Mughini... Ho fatto Parenzo, peraltro. Visto che sono il tuo Parenzo. Io sono il Parenzo della Cagnola. No, tu sei il mio Parenzo solo quando sei in trasferta, in collegamento da Londra. Okay. Tu sei in collegamento da Londra, fai Parenzo. E tu sei il mio Cruciani sempre. Non so come prendere questo là. Adesso aspetta che finita la trasmissione ci rifletto sopra. Cos'era successo alla gabbia? Torniamo alla gabbia. Mughini aveva definito illegali i manifestanti che bloccano i binari ferroviari. Cos'è successo? Che Chiavegato si è arrabbiato e ha detto: non ne possiamo più di giornalisti che parlano tutto il giorno di Juventus e la sera ci danno lezioni. A quel punto, da 0 a 100, accelerazione improvvisa. Nomini la Juventus a Mughini. Cosa succede? Cosa ha combinato Mughini alla gabbia? Io chiacchiero della Juve quando mi chiamano a farlo e poi faccio da 40 anni il giornalista, ho scritto più libri di quanti lui ne abbia in casa, siccome non sapeva di che cosa stava parlando. Io sono molto leale, se ho di fronte un cretino penso che sia un cretino, se ho di fronte una persona intelligente penso che sia una persona intelligente. Allora Angela, che è molto simpatica, è stata a cena a casa mia, ma è disordinata mentalmente. Ah, ecco, dice che è illegale la disoccupazione. Angela, fammi parlare un attimo! Ma cosa vuoi che mi freghi? Dai. C'è la povera Angela Zaro, la quale, cioè, le ha detto: sono stata a cena a casa sua, lei è stata a cena a casa mia, però è un po' disordinata mentalmente. Così. Che dire? Cioè... Sono queste liti del nuovo millennio, sono liti un po' che hanno delle cose dentro di surreale. Sono stato a casa, cioè, surreale. Non lo so, telefonatevi. Però vabbè, Mughini alla fine risolve tutta la... Stiamo scherzando, stiamo parlando di Mughini. Gli perdono persino la Juventus, guarda te. Il che è tutto il dire. Suo essere juventino è quasi però, da non juventino. Sai che in quella puntata lì mi sa che non hanno parlato del Bilderberg per una volta. Non lo so, non... Sicura? No, beh, qualcuno l'avrà nominato qualcuno... Ma comunque c'è questo fenomeno pazzesco in rete. C'è un video indipendente fatto da iene delle iene, cioè da persone che andavano alle iene a dire: ma perché non avete fatto un servizio da iene su Bilderberg? Come se le iene dovessero per statuto occuparsi No, e poi c'è sempre qualcuno più iena di te. Questa è la lezione. Certo, 1.400.000 e passa visualizzazioni di questa specie di documentario sul Bilderberg. Si intitola Bilderberg e Mess, dove praticamente non si capisce, tutto è colpa del Bilderberg, però non viene raccontato praticamente nulla di queste colpe che avrebbe. E quindi la rete vive di questi fenomeni straordinari. Ma vogliamo... ce l'abbiamo un pezzettino? Ah, vogliamo, ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Europa, Svizzera, il paese delle banche. Da qui inizierà la nostra storia. Vorrò raccontarvi qualcosa che farà tremare i palazzi di poteri forti. E in questa occasione c'è anche Francesco Morini. Francesco, l'abbiamo trovato? Alessandro, questa volta non è stato facile, ma l'abbiamo trovato. L'abbiamo trovato, quindi andiamo a trovare chi darà alcune verità invisibili agli occhi. Cioè, capito, lo stile delle iene. Sì, invisibili agli occhi. Poi intervistano l'autore di un libro su questo centro che si trova. È legittimo anche credere alle scie chimiche, va bene tutto. Però mi diverte molto il finto servizio iene. Perché la rete infatti ti induce a fare di più quello che viene fatto nella realtà. a volte di bene, a volte di male. Bisogna saperlo e stare attenti. È la realtà. Il concetto di realtà, è la realtà che respiriamo. Quindi è un po' lo spirito dei tempi, anche nelle fiction. Sai? Lo sapevo che volevi arrivare a Casa e Bottega. Casa e Bottega. Allora, Renato Casa Pozzetto e Bottega. Per me rimarrà sempre ragazzo di campagna, come ha scritto per anche Aldone Nazionale. Per sempre, straordinario. Renato Pozzetto, grande affetto per Renato Pozzetto. Fiction. Numeri, audience? Allora, aspetta, numeri, audience, ce l'ho qua. Allora, la prima parte, il 20,30%, 5.248.000 spettatori. La seconda puntata, 5.337.000 spettatori, 20,07%. Ok. Beh, molto bene. Renato Pozzetto, che ha prodotto in famiglia questa fiction, e quindi appunto Casa e Bottega, anche Aldo Grasso, che pure ha fatto una recensione positiva, ha sottolineato questo aspetto. Di cosa parlava? Allora, Mario Trezzi, Renato Pozzetto, è un imprenditore a capo di un'azienda di intimo che, a causa della forte concorrenza dei cinesi, si ritrova in crisi al punto da rischiare il fallimento a doversi indebitare. Prova a salvare la sua ditta cercando aiuto in una finanziaria che però si rivelerà una truffa. Insomma, lui è passato dalla banca, la banca non l'ha aiutato, la finanziaria non era poi così pulita. Allora Mario vende l'azienda, vende la casa, però riesce a un certo punto a rialzarsi. Ci sono degli estratti di questa fiction, ne ho preso uno in particolare, che davvero secondo me sono il segno dei tempi. Ascoltiamo e faccio sentire un pezzettino di questo Casa e Bottega. E comunque così non si può andare avanti. La gente non arriva alla fine del mese. Allo sportello Caritas ogni giorno c'è una fila che non avete idea. Sono cicli come la natura, poi tutto si sistema. Cicli un corno. Parli facile tu. A un medico il lavoro non manca mai, anzi, con la crisi magari ti aumenta. Al contrario, le difficoltà fanno bene alla salute. Ha ragione il dottore. Io, nonostante tutti i casini che ho passato, sto bene. Ma è stato meglio. Adagio adagio, un passo per volta, vedrete che mi rimetto in piedi. Cioè? Ti riprendi l'attrezzi? Guarda che se le cose dovessero andare avanti così come stanno andando, non è mica detto, eh? Vedi, un tempo le fiction erano, uno perdeva l'amore, poi lottava e ritrovava l'amore, adesso si perde l'azienda, si lotta per ritrovare l'azienda. E grande ambientazione, il lago, era tutto un po', appunto, anche lì surreale. Loro sembravano un po'... si notava che recitavano. Però non era male. Girata meglio di tante altre fiction. Alcune cadute nella sceneggiatura, certo. Alcune battute però, non proprio, insomma, felicissime. Strano da decidere se è bello o brutto. Sì, anche io sono rimasta un po' così, perché effettivamente, ma non so, mi ha un po' lasciato. Però tutto sommato, appunto, meglio di tante altre. Ascolterei un altro pezzetto che abbiamo. Abbiamo tempo per ascoltare un altro pezzettino di questo Casa e Bottega. Raccontate, no? Com'è andata? È andata e abbiamo incassato 200 euro. Che moltiplicato per 5 giorni di mercato fa 1000 euro a settimana. Che moltiplicato per 4, che sono le settimane al mese, fa 4000. Che diviso 2, giusto? Fa quanto lo stipendio di un dirigente. Vero? È un business di tutto rispetto. Ma è fantastico, no? È solo l'inizio. L'inizio? Sì, l'inizio di una nuova avventura. L'importante era ricominciare. Quello che abbiamo fatto oggi, abbiamo ricominciato. Complimenti, Erminio. Complimenti a lei. Complimenti a lei. L'inizio, la crisi come opportunità, segno dei tempi, la fiction Casa e Bottega. Complimenti. Lasciamo sospeso il giudizio sulla fiction tecnicamente, ma direi segno dei tempi assolutamente. Siamo agli sgoccioli, è quasi finita la nostra puntata di RadioTube. Però, questa volta il momento dei saluti è un po' difficile. E Luca Dello Jacovo era un giovane uomo, un giornalista molto competente, appassionato di idee nuove, dunque veramente un ottimo giornalista. Scriveva anche sul Sole 24 Ore. Ciao Luca. E si conclude anche il nostro RadioTube di questa settimana. Noi lo vogliamo concludere però con un abbraccio ai nostri ascoltatori per le feste di Natale. Noi saremo ancora insieme durante le feste con un sacco di speciali. Avremo tante occasioni per stare insieme. Ringraziamo anche Roberto Scaltritti in regia. Buone feste a tutti. Arrivederci.